Il ministro Grilli ci ha fatto una illustrazione generale, ci ha detto che bisogna trovare le risorse per evitare, e questo è giusto, l'aumento dell'IVA, cioè 6 miliardi e mezzo. Non abbiamo capito, perché non ci è stato detto, in quale modo e quali comparti di spesa pubblica parteciperanno alla copertura di questi 6 miliardi e mezzo. Noi abbiamo detto una cosa molto semplice, che dobbiamo già gestire due manovre che pesano sul 2013, più la spending che pesa già sul 2013, e quindi non ci sono le condizioni in nessun modo per poter pesare ulteriormente su alcuni servizi fondamentali: sanità, trasporto pubblico locale, che sono gli elementi ormai su cui ancora le regioni agiscono, visto l'azzeramento del fondo sul sociale. E dunque il problema è molto serio.